ma guardate, le cose sono andate così. Ora voi siete cristiani, il perdono è quello che avete sperimentato e il perdono è quello che voi date. Perdoniamo tutti e andiamo avanti sereni, perché ormai quell'accanimento di una volta non c'è più. Mi è venuto a trovare al negozio, voleva comprare qualcosa al negozio. Io l'ho trattata normalmente, anche la madre. Poi un giorno alla cognata gli ho detto che se non veniva più era giusto che non fosse venuta, perché non per me, perché ricordi dava pure a mio marito. Avete sentito l'amica di Celeste, Esterina Di Veroli. La pantera nera ormai è convertita. Muore il 19 marzo 1981. So che è morta, dopo male, però male di un male cattivo negro. Ecco un'altra parola giudaica. Angelo. Nessuno piagne per la vola. Le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti in regia. A domani. Mix 24.